Olimpia, miti e verità dello sport, di Dario Ricci. Per la prima volta nella storia del basket femminile, una squadra italiana iscrive il proprio nome nell'albo d'oro della Coppa Europa, il massimo torneo continentale. Il Geas di Sesto San Giovanni a Nizza ha sconfitto per 74-66 nella finalissima le ragazze cecoslovacche dello Sparta Praga. 22 punti della Battistella e della strepitosa Mabel Bocchi, il solito straordinario lavoro di Rosi Bozzolo, la continuità della Tonelli, della Ciaccia, della Sandon, della Re, sono stati tutti elementi sui quali la formazione italiana ha costruito questo importantissimo successo, che viene a interrompere la superiorità finora continua delle squadre est europee e sovietiche in particolare. Il Geas ha mantenuto i contatti nel primo tempo, terminato con le ceche in vantaggio d'un punto, poi ha allungato nella fase centrale della ripresa e ha colto la meritatissima affermazione. Avete sentito un audio leggendario oggi qui a Olimpia, perché innanzitutto c'è un Bruno Pizzul, il commentatore di basket femminile, che davvero è forse un inedito. E poi soprattutto, come avete ben sentito, celebriamo oggi una vittoria importante, storica, del nostro basket femminile, la Geas San Giovanni, che nel 1978 a Nizza conquistò per la prima volta la Coppa dei Campioni, e soprattutto anche un legame generazionale che unisce quella Coppa, una Coppa Italia che era già stata vinta nel 1973 con una Coppa Italia che invece la Geas San Giovanni femminile ha conquistato poche settimane fa, con una protagonista in campo davvero particolare. E allora, intanto salutiamo le nostre ospiti in studio, che sono il trade union ideale di questa storia di basket che si sviluppa al femminile lungo i decenni sotto i canestri di Sesto San Giovanni. Benvenuta Rosi Bozzolo, che di quel Geas campione d'Italia era il play? Sì, ciao a tutti, sì, ero il play di quella squadra e mi ha fatto moltissimo piacere risentire questo intervento di Pizzu, che non ricordavo assolutamente, di una vittoria veramente che per me è stata quella più importante della carriera. Eh sì, insomma, una voce così prestigiosa regalata per una vittoria altrettanto importante al basket femminile. Coppa Italia che voi avevate vinto nel 73, quello che abbiamo sentito era il racconto della Coppa dei Campioni. 42 anni dopo, Geas torna a vincere la Coppa Italia, in campo c'è Giulia Arturi, playmaker? Sempre playmaker. E che legame di parentela c'è con Rosi? Sarei la figlia. Ah, eccolo qua, svelato il legame che unisce quattro decenni e qualcosina in più di storia del Geas e della nostra pallacanestro. Rosi, andiamo subito sulle spicciole e sul tecnico. Più brava te o più brava Giulia? Oh, guarda, questa era una domanda che hanno iniziato a farmi da quando giocavo a mini basket, alla quale non ho mai risposto e intendo non rispondere nemmeno ora. Due generazioni e due modi di giocare al basket completamente differenti, che non possono essere messi in parallelo né confrontati, e quindi lasciamo a chi guarda le partite giudicare. Ma si riesce a dare comunque qualche suggerimento, oppure il gioco e le protagoniste sono talmente cambiate che sembra davvero una pallacanestro totalmente differente? Beh, non esageriamo, totalmente differente no, diciamo che i suggerimenti si possono dare molti, cose che però io evito accuratamente di fare, quindi se non su richiesta, quindi i suggerimenti in famiglia sono vietati di solito. E quindi tu ogni tanto, Giulia, chiami il time out, mamma, onestamente tu che ne pensi di questo schema, di questa situazione? Esatto, suggerimenti solo su richiesta, comunque vengono richiesti perché sono sempre utili, ma insomma, non sono inondate di suggerimenti, ecco. il giusto per portarsi a casa una Coppa Italia, visto che mamma già qualche trofeo in bacheca l'ha messo insieme. Voglio farti sentire, Rosi, anche a te Giulia, le interviste del dopo partita di quella vittoria della Coppa Campioni, perché Giorgio Bubba, evidentemente prestato al basket per l'occasione, ma chiaramente esperto più di calcio e di altri sport, intervistava così il vicepresidente di quel Geas, Giuseppe Villa. Cosa fanno queste ragazze? Di cosa vivono? Gli date dei soldi? Beh, personalmente queste ragazze posso dire che vivono del loro lavoro e come hobby hanno la pallacanestro. Sono veramente ragazze notevoli che meritano proprio la considerazione di tutti gli sportivi italiani per il risultato di quest'oggi. Quanti anni avete impiegato a maturare questa squadra che si è imposta alle campioni d'Europa? Esatto, esattamente sono 9 anni. di cui 7 come campione d'Italia, comunque notevoli sacrifici fatti da tutti. E allora, così parlava Giuseppe Villa dopo quello storico successo in Coppa Campioni. Direi, Rosi, lo spirito dilettantistico che animava quel basket si è trasferito anche al basket femminile di oggi, seppur in un contesto diverso, con altre straniere, con una nazionale che ha avuto anche dei picchi importanti, no? Sì, si è trasferito, soprattutto diciamo che il professionismo nel basket femminile non è mai stato ad altissimi livelli, totale. Il fatto dell'arrivo delle americane sicuramente l'ha mosso in avanti, ma diciamo che ora stiamo un pochettino tornando indietro per crisi economiche e varie, e quindi siamo un po', diciamo, indietro sotto questo aspetto. Comunque diciamo che rispetto ai miei tempi anche oggi le ragazze o lavorano o studiano, molto di più studiano. Ecco, Giulia, tu per esempio che fai oltre a fare il playmaker del Geas? Io mi sono laureata un anno fa alla specialistica, alla statale di sociologia, dopo aver studiato scienze della comunicazione triennale, e come tanti tanti altri giovani adesso sto cercando un posto nel mondo del lavoro, diciamo. Mi sto muovendo, insomma, per andare avanti anche da quel punto di vista lì. Mi ritrovo comunque nell'essere un po' un hobby la pallacanestro, diciamo, perché soprattutto la nostra squadra è composta da studentesse o ex studentesse come me, che non è un hobby per quanto riguarda la mole di impegno, ma probabilmente per il fatto che deve essere comunque accoppiato a un lavoro piuttosto che a uno studio, anche se, come ha detto mia mamma, l'americana, la Serie 1 è molto più improntata sul professionismo, diciamo, che all'epoca. Ecco, ti farà piacere sapere che c'era anche una illustre compagna di mamma che qualche decennio fa la pensava super giù come te. Faccio riferimento a Mabel Bocchi, che è stata forse il mito insieme a Caterina Pollini, no? Del movimento femminile. Sentiamola proprio dopo quella vittoria in Coppa Campioni. Io adesso sono studentessa di medicina, mi sono già diplomata all'ISEF e lavoro presso una televisione privata, Antenna Nord. E cosa farà l'insegnante di educazione fisica? Ma ho fatto l'insegnante per 3 anni, poi ho iniziato appunto lo studio di medicina e penso porterò avanti questo studio. Nel frattempo vorrei intraprendere giornalismo. Siete tutte dilettanti? Sì, tutte dilettanti. Una vittoria di una squadra italiana che va sottolineata, quindi, sotto questo aspetto. Una volta tanto il professionismo ci dà le delusioni, i dilettanti ci danno le soddisfazioni. Ma nella pallacanestro siano i donne che gli uomini siamo tutti dilettanti. Non direi quelli maschili, ecco. Ma siamo professionisti, cioè si dice dilettanti, siamo professionisti dal punto di vista di impegno più che altro. E allora, così Mabel Bocchi, direi, Giulia, ha definito questo quadro super giù, che ahimè non è cambiato poi tanto, insomma, di basket femminile si fa fatica a vivere. Sì, diciamo che ad altissimo livello è un po' diverso. La mia dimensione attuale è come quella che descriveva Mabel all'epoca. Adesso sicuramente i vertici e molte realtà per quanto riguarda l'impegno e anche la visibilità sono professionismo, sicuramente non dal punto di vista, insomma, economico. Esatto. Magari con questa Coppa Italia in bacheca qualcosa può cambiare nella carriera. Sentite un po' quest'audio. Il Paddy Power Geas Sesto San Giovanni vince la Coppa Italia. La capitana Giulia Arturi ora alzerà al cielo la Coppa Italia 2015, il trofeo Coconuda. Va al Geas, ha vinto con merito la finale per 62-54 su Ferrara. Ferrara non è stata mai doma. Ed eccola qui la festa del Geas, la meritata festa del Geas, Sesto San Giovanni. E così questa è la festa del Geas San Giovanni di oggi, con Giulia Arturi, playmaker e capitana che ha alzato la Coppa Italia. Rosy Bozzolo, voi abbiamo sentito We Are the Champions dei Queen, voi come festeggiavate? C'era una colonna sonora per i vostri successi? Ma non c'era una colonna sonora, devo dire che questa era la mia colonna sonora prima delle partite, ma ai nostri tempi non si usava mettere la musica prima dell'inizio della partita. Quindi, insomma, si preferiva magari un goccettino di vino dopo il successo. Forse sì. Oggi voi siete un po' più analcoliche nei festeggiamenti o no? Sì, diciamo di sì. Senti Rosy, ti chiedo ancora, adesso che ci abbiamo alla conclusione della nostra chiacchierata, coppe, vittorie, ma c'è un thread union, una linea rossa che si dipana, oltre al vostro splendido rapporto, alla vostra parentela, e che unisce quei successi di allora con questa coppa di oggi? Beh, diciamo che il trade union sicuramente è il grandissimo impegno che mettevamo noi, io, e che mettono queste ragazze, Giulia in particolare, che sono sempre presenti in tutti gli allenamenti, che veramente non demordono mai e che quindi sicuramente possono pensare in positivo anche per il resto del campionato. Ecco Giulia, appunto, Coppa Italia in bacheca, obiettivi stagionali? Sì, la Coppa Italia diciamo è stato un bel intermezzo, un piacevole successo, ma la parte importante del campionato deve ancora arrivare, quindi ci siamo subito rimessi in palestra per insomma, cercare di giocarci la promozione in Serie A 1. Sarà difficile, ma insomma, possiamo provarci, ecco, sicuramente possiamo provarci. E allora un altro grande traguardo da raggiungere, e allora ti accompagniamo con l'in bocca al lupo di Olimpia, e grazie allora a Giulia Arturi per essere stata oggi ospite di Olimpia, la città dello sport. Grazie a voi, grazie. E grazie anche alla mamma, e che mamma, Rosy Bozzolo, per le coppe di ieri e per l'entusiasmo di oggi anche qui a Olimpia, la città dello sport. Grazie a voi e in bocca al lupo ancora al Geas e a Giulia. Olimpia, miti e verità dello sport. Medaglia d'oro e campione olimpico, Giorgio Di Centa, Italia! Ci spingono una volta di più verso ghiaccio e neve gli dei di Olimpia e dello sport, per rendere omaggio a un grande campione dello sci di fondo italiano e mondiale. Giorgio Di Centa, 42 anni, 2 ori e un argento olimpici, 6 vittorie e 27 podi in Coppa del Mondo, che quest'anno ha chiuso la sua straordinaria carriera. E dire che Giorgio aveva iniziato, pensate, a praticare il fondo insieme alla sorella Manuela, altra protagonista del nostro sport, per curare l'asma che lo affliggeva da bambino. Ne sono passati di chilometri e medaglie da quei giorni, e oggi l'eredità di Giorgio Di Centa viene idealmente raccolta da quello che fino a poco fa è stato il suo compagno di stanza in azzurro in quest'ultima stagione, e che ha recentemente conseguito la prima vittoria in carriera in Coppa del Mondo. Francesco De Fabiani, grazie per essere oggi ospite di Olimpia, la città dello sport. Grazie a voi. 22 anni e vincitore nella 15 km a tecnica classica di lati in Finlandia. Vittoria storica per il nostro fondo, vero Francesco? Sì, in realtà in una 15 km in classico ben da 22, quando aveva vinto al Barello in Svizzera. E tra l'altro io 22 anni fa non ero ancora nato. Protagonista ora in pista, giovane spettatore appassionato durante le Olimpiadi invernali di Torino 2006. Sì, io sono, me ne ricordo perché sono andato a vederle. Sì, comunque non avrei mai pensato quando ero a vederle di riuscire poi a partecipare alle due Olimpiadi dopo, che è già quelle di Sochi. È strano poi ritrovarsi come compagno di camera quel Giorgio Di Centa che di quei giochi è stato il grande dominatore, vero? Sì, è stato strano perché siamo stati in camera, compagni di camera per più di una volta, e la cosa particolare è che io, avendo 21 anni e lui 42, lui aveva il doppio della mia età. E allora Francesco De Fabiani, riviviamo insieme proprio le Olimpiadi tutte d'oro di Giorgio Di Centa e del fondo azzurro a Torino 2006. Va come musica che ci illumina. A Torino 2006 Giorgio Di Centa prese alla lettera l'esortazione contenuta nell'inno ufficiale cantato da Claudio Baglioni. Più veloce del vento a mulinare le braccia e a solcare la neve con i suoi usci, il campione di Paluzza trascina la staffetta con Piller Kotler, Valbusa e Zorzi al trionfo nella prova più prestigiosa. Dominio italiano che quasi sorprende lo stesso Di Centa nel dopogara. Ma è nato soprattutto nelle gare a classico, perché è dove avevamo più paura. Il Bubo ha tenuto benissimo il gruppo, io ho fatto altrettanto. A metà gara ho visto che ho cominciato a nevicare, ho subito pensato, comincia a nevicare quando non scappa più nessuno, perché è classico nei binari, quando c'è neve da battere non c'è storia. E finalmente abbiamo dato il cambio a Pietro coi primi. E invece a skating è diverso, anche se nevica non importa, si può fare lo stesso la differenza. Lui lo ha capito e ha visto che la Norvegia schierava Estil, che sulla carta era più debole, in più aveva materiali non al top. Quando lui ha visto questo, si è tenuto per gli ultimi 3 chilometri, l'ha cominciato a accelerare, ha tenuto un po' solo la Svezia. Lui in questo momento è quello che sta meglio, soprattutto a skating, e ha dato l'impronta della staffetta. Poi Christian è partito regolare, gliel'avevamo detto, guarda, fai una gara regolare. Pur andando via regolare è riuscito a guadagnare, perché poi non c'è più l'effetto scia, quindi eravamo tutti sgranati. Questo per noi è stata una manna, e avete visto, poi vabbè, la Germania è riuscita a prendere sì la Svezia, però l'Italia ormai era imprendibile. Finalmente, io da quando corro non siamo mai riusciti a vincere così con tranquillità una staffetta. È capitato qua alle Olimpiadi e penso che sia il massimo. Pochi giorni dopo tocca la gara individuale più sentita, la 50 km maschile, che incorona Dicenta re dei giochi. Se quella in staffetta era stata una cavalcata trionfale, nella maratona del fondo il podio si decide in un'entusiasmante volata, raccontata dalla Rai con le voci di Franco Bragagna e della grande Stefania Belmondo. Sono tutti lì, anche ci sono anche i cecoslovacchi, bisogna fare attenzione. Davanti Botvinov, siamo al finale, Botvinov davanti, poi c'è Giorgio Dicenta che torna sotto, prova. E ancora Anders Södergren, ecco Giorgio Dicenta, dietro c'è Pietro Pillerkotter, va avanti Giorgio Dicenta, guadagna qualche metro, centimetro, non metro, davanti Giorgio Dicenta che aveva attaccato così anche nell'altra gara. Giorgio Dicenta, dietro Pietro Pillerkotter, si accoda Pietro Pillerkotter, Dicenta Pillerkotter, poi con il numero 18 c'è ancora, attenzione Yevgeny Dementiev, ma attenzione che Giorgio Dicenta avanti, davanti Giorgio Dicenta, secondo Pietro Pillerkotter, poi ci sono Dementiev e Botvinov, Giorgio Dicenta avanti, tiene Giorgio, mancano 100 metri, dai Giorgio, dai Pietro Pillerkotter, Giorgio Dicenta davanti, Pietro Pillerkotter perde la medaglia, dai! Ma Giorgio! Ma vince la medaglia d'oro, Giorgio Dicenta medaglia d'oro, Pietro Pillerkotter al sesto si rialza, Giorgio Dicenta ha vinto la 50 km a tecnica libera, ultima medaglia individuale di questi giochi, l'Italia conquista la quinta medaglia d'oro. Dopo la staffetta, ecco quindi il bis tutto d'oro. Giorgio Dicenta è il re di Torino 2006. Subito dopo il traguardo, il neocampione analizza con lucidità lo sviluppo tattico della gara. Mi sono trovato sinceramente in difficoltà, se torniamo un passo indietro nella gara, quando ho scattato Pietro, che era, non so, verso il quinto o sesto chilometro, ha scattato lui e Magal un due volte, sono stati degli scatti molto forti, io non, così, una velocità così non riuscivo ancora a sostenere. Probabilmente dopo le ultime due salite finali che sono riuscito a risparmiare, pur in un caos del gruppo, perché credetemi questa gara qua è stressante da questo punto di vista, sono riuscito a risparmiare le energie per questo rettilineo. E credetemi, pensavo di sbagliare ancora quando sono partito via, che ho passato Vito a sinistra, sono cominciato ad andare avanti, era ancora tanto lontano il traguardo, ho detto avrò sbagliato anche oggi, no? Qualcosa, perché controvento così, e invece sono riuscito a prendere un bel ritmo, le gambe non hanno ceduto finalmente e ho concluso molto bene la gara, e ci ho creduto solo quando ho passato la linea, perché solitamente sono sempre abituato a essere ripreso e passato, quindi è stato incredibile questo. Poi però l'emozione ha il sopravvento e il cuore del campione si scioglie. Io appena sono arrivato ho chiesto alla mia famiglia, perché avevo bisogno in quel momento veramente di loro, e loro sono sempre il mio appoggio morale, specialmente mia moglie, guarda, lei è il mio 50%, lo dico sempre, a casa lei fa tanto e sa quanto, non dico me stesso perché sarebbe brutto dirlo, ma quanto un fondista in generale fa dei sacrifici e quante volte a casa rientra stravolto. Poi è il momento del podio, della festa, dell'oro. Medaglia d'oro e campione olimpico, Giorgio Dicenta, Italia! E durante la conferenza stampa del dopo gara il cellulare del neocampione olimpico squilla all'improvviso. Pronto? Ciao! È andata bene, mi è toccato far come te, eh? Dall'altro capo della cornetta c'è Stefano Baldini, il campione olimpico della maratona d'Atene 2004. Due re di Olimpia uniti da fatica, sudore, trionfo, oro. Ha detto che lui è stato ancora più emozionato della mia, perché arrivare in volata, che non sai fino alla fine quello che succede, sia stato spettacolare. Allora, Francesco De Fabiani, abbiamo rivissuto i trionfi olimpici di Giorgio Di Cento a Torino 2006. Campione olimpico, ma dici la verità, è stato anche un compagno di stanza divertente, spero, per te. Sì, certo, è molto simpatico e no, è ordinato. Sì, però gli piace anche scherzare. Non è stato un compagno noioso. Scherzi a parte, hai avuto modo di chiedergli consigli, rubargli magari qualche segreto? Beh, sicuramente lui per me è stato un grande esempio, ho copiato tante cose, dal modo di approcciarsi alla gara, all'alimentazione, all'allenamento, a come porsi davanti all'allenamento, che pur avendo 42 anni aveva ancora più voglia di imparare di noi giovani praticamente. E quello mi è stato un grande esempio per me. Direi che anche tu, però, seguendo l'esempio di Giorgio Di Cento, sei sulla buona strada. Sì, speriamo di continuare su questa strada e spero di essere anche stato un esempio per tanti giovani, perché alla fine, in pochi anni, una cosa che sembrava impossibile è diventata realtà. E questo credo che sia una speranza che si accende in tanti giovani che praticano questo sport. Francesco De Fabiani, in bocca al lupo allora per la tua carriera e grazie per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport. Grazie, crepi il lupo, vi ringrazio tutti per averci seguito e a presto. Anche per l'appuntamento odierno con Olimpia è tutto, un grazie a Filippo Aureggi in regia. Vi ricordo che potete riascoltarci in podcast dal nostro sito web radio24.it. Ora spazio a tutti i convocati weekend, Olimpia torna come sempre domenica prossima alle 16:30. Ancora una buona giornata da Dario Ricci.